America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. 大约15分钟后，奥巴马出现在飞机舷梯口，向等候的人群挥手致意。随后他自己撑开雨伞。Ecco come lo hanno accolto, perché continua, anzi prende quota, assume spessore il viaggio in Oriente, in particolare in Cina, del presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, e si comincia a delineare l'intenzione, soprattutto alla base di questo viaggio, che forse è anche la cosa che più ci interessa capire. Si intuisce che l'idea di fondo di Obama e dei suoi è quella di esporre una immagine diversa dell'America del 2009-2010, un'immagine disponibile, un'immagine positiva, un'immagine gentile, quella di un'America sorridente, ben diversa da quella dei tempi recenti, non più malata di onnipotenza, certamente in cerca di amici, un'America soprattutto che ha preso una gran brutta lezione e nel rialzarsi è pronta ad accettare anche come dire, contributi peraltro necessari. E poi c'è anche l'esposizione di uno stile del presidente che l'America si è scelta nella persona di Barack Obama, che continua la propria tradizione, ad esempio, di dire le cose che contano, le cose sostanziali, insomma, di affidare il suo messaggio principale al di fuori dei confini nazionali a delle platee giovani. È successo a Cairo, è successo a Praga, e ci sono di nuovo i giovani di Shanghai, seppure una classe di eletti, di futuri dirigenti, che lo hanno ascoltato, interrogato e gli hanno offerto l'occasione di dire cose importanti. Ascoltiamo qualcosa. That is why the United States insists we do not seek to contain China's rise. On the contrary, we welcome China as a strong and prosperous and successful member of the community of nations. Il discorso è molto chiaro, sono tramontati i tempi della concorrenza di partenza, ovvero del punto di partenza situato in contrapposizione più o meno aperta degli Stati Uniti nei confronti della Cina. Invece si guarda con interesse, tra l'altro anche alle metodologie di successo della Repubblica Popolare, e si cerca di ottenere dalla collaborazione, almeno questo nelle intenzioni dichiarate del presidente, della collaborazione tra Stati Uniti e Cina, i migliori risultati possibili. Escono anche articoli che guardano con interesse a questo atteggiamento di Obama, ad esempio sul New York Times, l'editoriale chiave della testata newyorkese parla di economia e sicurezza, sì, invoca anche i diritti umani, ma dice: per riuscire nei suoi scopi Obama deve incoraggiare la Cina a giocare un ruolo internazionale più deciso, ma al tempo stesso deve togliere di scena alcuni degli istinti più oscuri della Repubblica Popolare, i maltrattamenti di alcuni suoi cittadini, le relazioni pericolose con il Sudan. Ma poi nota che per il presidente Obama la sfida più dura e più urgente è quella di dare al bisogno di Pechino nella soluzione di una serie di problemi estremamente complessi, di dimensioni epocali, il giusto senso in vista di una stabilizzazione del sistema finanziario globale e poi della soluzione ai problemi come il riscaldamento terrestre, le armi nucleari della Corea del Nord e quant'altro. Abbiamo in linea un gradito ospite più volte ai nostri microfoni, Fabio Cavalera, corrispondente da Londra del Corriere della Sera, dopo aver lavorato a lungo in Cina per diversi anni, per 4 anni, e tra l'altro in procinto di presentare, dopodomani uscirà in tutta Italia, nelle librerie italiane, un titolo da Bompiani, Repubblica Impopolare Cinese. Viene presentato come una ricognizione sulle modifiche e la contraddizione della Cina dal 76, l'anno in cui è scomparso Mao Zedong, a oggi, con il passaggio da una economia di stampo collettivista a un'economia che tenta di coniugare, no, questo strana formula cinese, dettami del Partito Comunista, con uno sfrenato capitalismo. Io saluto e ringrazio Cavalera di essere con noi. Buongiorno Fabio. Buongiorno, grazie, grazie mille a voi. Ti chiedo, tanto per cominciare, così ti frego subito, un impegno nei prossimi giorni a presentare in profondità il libro insieme. Molto volentieri. Ci farà molto piacere, i nostri ascoltatori sono molto vicini a questi argomenti, ma da te a questo punto, connettendoti anche con quanto hai scritto e hai ragionato nel tuo nuovo saggio, vorrei un punto di partenza, un giro d'orizzonte soprattutto sullo stile, l'approccio che Obama sta utilizzando in questo viaggio in Cina. Ci sei stato a lungo, secondo te è la chiave giusta? Mi pare proprio di sì, è un approccio sincero e entusiastico allo stesso tempo, e mi pare che il messaggio sia abbastanza chiaro, e cioè che la dottrina del contenimento cara all'amministrazione Bush è stata archiviata e che oggi la collaborazione e la cooperazione fra Washington e Pechino sono al centro degli interessi dell'amministrazione americana. Qual è secondo te l'effetto in un momento come questo, in cui la Cina, no, guarda come non mai oltre i propri confini? Quale può essere l'effetto della apparizione fisica, insomma reale, nel proprio territorio, nelle proprie grandi città, di Obama presso la grande Cina? È qualcosa che verrà, qualcosa palpabile per i cinesi come popolo, o resta comunque un affare per pochi intimi, come si può dire? No, credo che sia palpabile. Da quello che so, da parecchie settimane, se non mesi addirittura, ci sono magliette che circolano in Cina con l'immagine di Obama stampata sulla vecchia immagine di Mao Zedong, quindi e poi i cinesi sono sempre il popolo cinese è sempre molto curioso di ciò che avviene al di là del Pacifico, hanno sentimenti contrastanti, è vero, però sono molto molto curiosi, lo erano persino con Bush, figuriamoci con Obama. Credo che l'interesse sia reale, sia a livello di più alto, di partito comunista e di governo cinese, e sia anche a livello proprio di popolo cinese. Ecco, ritieni, proprio connettendoci con la tesi, l'oggetto di osservazione principale del tuo libro, ricordo ancora il titolo, Repubblica Impopolare Cinese, ritieni che questa grande contraddizione, no, tra appartenenza politica e invece modalità economica, no, volta al capitalismo della Cina di questi tempi, da questo avvicinamento progressivo all'America, in un certo senso rappresenta la diversità, grazie agli auspici di Obama, possa portare in un vicino futuro a un cambiamento, a un ulteriore slittamento, diciamo così? Ma io credo che la Cina non sia abituata a ragionare in tempi brevi, quindi dobbiamo adeguarci a questo, e quindi ha fatto un grande cambiamento nel suo sistema economico in 30 anni, che sono tanti e sono pochissimi. Per quanto riguarda il sistema politico, credo che ci si debba aspettare molto, molto, moltissimo. Credo che però il fatto di un approccio realistico da parte dell'amministrazione americana non possa che essere utile a una ulteriore riflessione che è già in atto nei piani alti dello Stato cinese su come e quando cominciare questa evoluzione di carattere politico. E quindi credo che l'approccio di Obama sia un approccio molto interessante. Quindi, per concludere, mi sembra di capire dal tuo punto di osservazione, per ora un giudizio positivo sui modi e sulle tematiche portate avanti dal presidente americano. Secondo me sì, è un giudizio positivo, soprattutto è un giudizio di realismo e anche di interesse. il risultato è che può determinarsi un blocco, il cosiddetto G2, che, G2 certo. che esclude l'Europa. Il resto del mondo. Questo adesso l'abbiamo visto anche sulla tematica ambientale, certo. quanto sia forte, quanto sia in grado di bloccare qualsiasi processo di evoluzione. Però credo che in effetti l'approccio realistico da parte di Obama non possa che essere considerato in modo positivo. Bene, io ti ringrazio Fabio Cavalera, vi ricordo ancora il titolo del suo libro in uscita questa settimana nelle nostre librerie, il saggio intitolato Repubblica Impopolare Cinese, ne riparleremo presto con l'autore. Vi ricordo anche che Barack Obama è atterrato a Pechino a quest'ora, più o meno, insomma, facendo due conti dovrebbe essere cominciata la cena di lavoro con il presidente cinese Hu Jintao. Poi sarà il programma in Cina, proseguirà con uno strano mix di turismo e attività politica, diplomatica vera e propria, insomma andrà nella città proibita, andrà a visitare la grande muraglia, ma rincontrerà nuovamente Hu Jintao e si vedrà domani in un bilaterale con Wang Jiabao. Today we have a positive, constructive and comprehensive relationship that opens the door to partnership on the key global issues of our time. Le cose vanno decisamente meglio, dice Obama agli studenti cinesi, le porte sono aperte e la cooperazione è una realtà di fatto, dobbiamo percorrerla insieme. Un altro articolo che esce oggi sul New York Times, a firma di Neil Ferguson, una firma molto autorevole, vede le cose, inquadra le cose in modo leggermente diverso, si chiama Il grande colpo, l'articolo in questione dice: alcuni anni fa abbiamo introdotto il termine cimerica per descrivere la combinazione delle economie cinesi e americane divenute insieme chiave di volta dell'economia globale. Combinando il 13% della superficie terrestre del pianeta e un quarto della sua popolazione, la cimerica è titolare di un terzo del prodotto economico globale, di due quinti della crescita mondiale dal 98 al 2007. L'abbiamo chiamata cimerica, che però si scrive chimerica, attenzione, per una ragione, dice Ferguson. Credevamo che questa relazione fosse per l'appunto una chimera, un ibrido mostruoso, un po' leone, un po' capra, un po' serpente, come in quella leggenda. Adesso siamo testimoni della agonia del mostro. La questione con cui Barack Obama deve fare i conti mentre si aggira per l'Asia in questi giorni è se darle il colpo di grazia o invece cercare di tenerla in vita. Nei suoi giorni migliori la cimerica consisteva essenzialmente di una combinazione di sviluppo cinese indotto dalle esportazioni e di sovraconsumi americani. Grazie alla simbiosi cimericana, la Cina ha quadruplicato il prodotto interno lordo dal 2000 al 2008 e ha quintuplicato le esportazioni, ha importato tecnologia occidentale e ha creato decine di milioni di posti di lavoro. Per l'America, cimerica ha significato essere in grado di consumare di più e risparmiare di meno, mantenendo bassi tassi di interesse e un tasso di investimento stabile. Il sovraconsumo significa che dal 2000 al 2008 gli Stati Uniti hanno speso molto più di quanto incassavano e le merci importate dalla Cina rappresentavano un terzo di questo sovraconsumo. Per qualche tempo la cimerica è sembrata non un mostro, ma un matrimonio celebrato in paradiso. Il commercio globale è fiorito e tutti i prezzi sono aumentati, ma come tanti altri matrimoni tra uno spendaccione e una economo, la cimerica non era un matrimonio destinato a durare. La crisi finanziaria del 2007 l'ha infatti messo in crisi. Correggere l'attuale sbilancio tra Stati Uniti e Cina e la relativa dissoluzione della cimerica è ora indispensabile per restituire equilibrio alla economia mondiale. Secondo ospite della nostra puntata monografica di oggi, perché il tema è quello che calamita anche l'attenzione di tutta America nei giornali, nei media, il tema del viaggio di Obama in Cina, ospite naturalmente con noi a commentare i fatti è anche Saro Capozzoli. Buonasera Saro, come stai? Buonasera a tutti. Sì, bene. Allora, abbiamo ascoltato da Fabio Cavalera del Corriere della Sera una, come dire, una recensione, una visione, un punto di vista ottimistico su, sullo stile, sull'approccio che il presidente americano sta dando alla sua discesa in Cina, insomma al suo modo di presentarsi al potere cinese, alla Cina, ai media cinesi che lo stanno riprendendo. Tu sei lì sul posto, dacci qualche informazione in più. Esiste un effetto Obama? Ma è in corso? Beh, l'effetto Obama non so bene che cosa potrebbe essere un effetto Obama qui in Cina. Qui c'è un c'è molta pacatezza, no? Ecco, vediamo come hanno, sì, c'è una grande evidenza di questa visita, che è stata, è una visita molto importante, ecco, però vi facciamo, vorrei farvi notare una cosa. 2 anni fa Putin è venuto qui in Cina, a Shanghai, e in occasione della sua visita hanno proprio scambiato un giovedì con una domenica, nel senso, e hanno bloccato una città il giovedì, perché c'era la visita di Putin, per poter poi lavorare la domenica. Avevano dato un'importanza enorme a questa visita, no? Cioè, tant'è vero che hanno bloccato una città di 20 milioni di persone. Mm-hmm. Oggi non è cambiato nulla, cioè, siamo andati a lavoro, c'è un gran traffico, c'è pioggia, 8 gradi, fa freddo, vento. Non hanno neanche tolto di mezzo la pioggia, come ormai hanno dimostrato di saper fare. Quello che voglio dire è che sì, c'è una grande attenzione, ecco, c'è un po' di freddezza su certi temi, su certi temi che sono cari un po' più agli europei che agli americani, però diciamo c'è interesse da parte delle giovani generazioni, del web, un po' di tutto quello che rappresenta il mondo giovanile. Sara, ma per esempio c'è una sensazione, come abbiamo anche con te più volte discusso, che ormai il dato di fatto, per esempio nel governo e nella riflessione sull'economia mondiale, sia un G2, anche dal punto di vista cinese si pensa a un G2? Ma questo è da molto tempo. Per quanto riguarda i cinesi hanno sempre più o meno sopportato l'Europa, ecco, anche quando, mi ricordo, tempo fa era venuto Prodi come Presidente dell'Unione Europea, no? E si parlava anche di Turchia, di astensione dell'Unione Europea da Turchia, eccetera. I cinesi si dice sì, va bene, però voi siete in tanti e disuniti, a noi piace avere un unico interlocutore unito con cui discutere, no? Infatti l'Europa a tutt'oggi parla con più voci, no? Molte volte discordanti. I cinesi sono molto su questo, molto chiari, no? Vogliamo avere un interlocutore forte con cui confrontarci, con cui messi d'accordo, eventualmente scontrarci. Ecco, in questo momento è un momento in cui tutte le due parti hanno interesse, appunto, a comunicare e a crescere. Da una parte i cinesi, che hanno il debito pubblico americano in mano e qui hanno bisogno di un'America che cresca, no? Anche per far sviluppare i consumi, e dall'altra parte gli americani, che hanno bisogno assolutamente dei cinesi per risolvere certe questioni come quelle in Afghanistan o in altre parti del mondo, dell'Asia. E senza i cinesi sarà impossibile trovare un accordo, una soluzione. Sara, ti fermo qua perché il tempo del programma è finito. Se sei d'accordo ci risentiamo domani, ci andiamo un po' nello specifico delle questioni che stanno discutendo a Pechino, che discuteranno soprattutto domani a Pechino i rappresentanti del potere cinese e lo staff di Obama, naturalmente Barack Obama stesso, quindi magari appuntamento con Saro a domani per questo. Anche perché ci sono tutta una serie di cose che reciprocamente si stanno puntualizzando, la questione dei diritti civili, la questione del protezionismo da parte, una critica che parte naturalmente da direzione cinese. Ne torneremo a parlare domani, perché continua questo importante viaggio del Presidente in Cina, ne parleremo qui a Buongiorno America. Ci sono io, Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Carmelo Lauricella. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte, la diretta domani dopo 1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.